spiegato, ma era per un barchino, un bruciato. Poi già perché è stato attaccato anche il telefono, dato una persona mi chiama verso le 5:30, perciò attaccato tutto, caparace. Che gli faccio scusare, si è occupato, vuol dire che lui aspetta, grazie, tanto che già riprendo qua, gli faccio la rinuncia. Cioè lui, Roberto, vabbè, cognome non lo dico, capito? Cioè lui, non preoccupare, ha risposto il padre. Beh, non ti basta, rompe coglione là? Aspetta che parla la madre di questo coglione, aspetta un attimo. Brutto coglione! La tua, perché sono nella bagassa e non ti davo i barchini in mano, coglione!